Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno, siamo giunti alla fine anche questa domenica, ringraziando Luca Giulio per la regia, ringraziando voi tutti per la cortese attenzione, ringraziamo Ondo Walter per il rapidissimo intervento. L'appuntamento viene rinnovato, come di consueto, per domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata a tutti. E che la domenica vi sia propizia, naturalmente.